Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane, di Rosita Celentano e Angelo Vaira. Jonathan parlò. Chi è più responsabile di un gabbiano che scopre e persegue un senso, uno scopo superiore nella vita? Da 1000 anni ci arrabattiamo in cerca di teste di pesce, ma ora abbiamo una ragione per vivere, imparare, scoprire, essere liberi. Datemi una sola possibilità, lasciate che vi mostri ciò che ho scoperto. Il gabbiano Jonathan scoprì che la noia e la paura e la rabbia sono le ragioni per cui una vita gabbiana è così breve. E quando quelle furono svanite dai suoi pensieri, visse una vita lunga e bella. Disse Chang a Jonathan: «Raggiungerai il paradiso, Jonathan, nel momento in cui raggiungerai la velocità perfetta, che non vuol dire volare a 1000 miglia all'ora, o a 1 milione, o alla velocità della luce, perché qualunque numero è un limite, e la perfezione non ha limiti. La velocità perfetta, figliolo, è esserci». Beh, abbiamo ascoltato le parole tratte dal... da un passo del famosissimo romanzo, dalla storia del gabbiano Jonathan Livingstone, che è un romanzo fantastico, meraviglioso, che io ho adorato da piccola, poi ci avevano fatto il film. E non potevamo iniziare questa domenica pasquale nel migliore dei modi, no? No, bellissimo, la velocità perfetta, che non vuol dire volare 1000 miglia all'ora o a 1 milione o la velocità della luce, perché qualunque numero è comunque un limite. Esatto. E qual è la velocità perfetta? Esserci. Questa cosa di esserci, i cani ce la insegnano un sacco di volte, perché noi siamo al parco, usciamo e il cane è lì esattamente presente, noi invece abbiamo: cosa devo fare dopo, l'ufficio, devo andare a fare la spesa, no? La nostra mente affollata di altri pensieri e non siamo lì. Allora, io per questa domenica pasquale vi voglio consigliare due letture che tutti conoscono, ma non so quanti hanno letto, ma se l'abbiamo letta quando eravamo più giovani, così rileggerla adesso con una consapevolezza diversa ti apre veramente il cuore, l'anima e la mente, che sono appunto Il gabbiano Jonathan Livingstone di Richard Bach e Il piccolo principe, perché sono due storie che ogni volta che le leggi scopri qualcosa di più per rendere la tua vita realmente consapevole. Adesso è una parola che secondo me è diventata anche troppo sfruttata, non inizia a non piacermi più perché la usano tutti anche negli slogan, perché ti vogliono un po' imbastire la capoccia, la testa di mille cose. Sto rivalutando il ruolo delle fiabe, delle storie nelle nostre vite di bambini, perché contengono un sacco di simboli e di aneddoti che poi ci fanno crescere per tutta la vita, e è possibile leggerli con più livelli di profondità, no? Man mano che cresciamo. Ecco perché l'invito alla rilettura di questi famosi testi. No, perché questi testi qui non finiscono mai, ogni volta che leggi scopri qualcosa di nuovo, no? E scopri e ogni volta guardi la vita da una prospettiva diversa, perché le prospettive non finiscono mai, c'è mai un momento dove dici: bon, ho visto la vita da tutte le prospettive. Visto che la nostra trasmissione si intitola La prospettiva dal mondo animale, la prospettiva non ha un limite. La prospettiva. Ma mi devi prendere per il culo proprio la giornata di Pasqua? Mo, come sei pesante? Mo, che ti ci mando pure a Pasqua, come sono pesante io. Festeggiamo la Pasqua, io spero. Insomma, la devo dire sta roba qua, spero tanto, la mia opinione personale, anche la mia personale, purtroppo io ci soffro tanto quando a Pasqua si mangiano gli agnelli. Tra l'altro abbiamo intervistato proprio l'anno scorso un padre Guido Alberto Bormolini, che ci ha detto: non è tradizione pasquale, no, cattolica, non è necessario ammazzare gli agnelli. Devo dirlo, perché la prospettiva del mondo animale, che caspita, ti devi chiedere che cosa prova l'agnello quando tu esatto, soprattutto anche per la vita che fa prima. Allora, noi domenica scorsa abbiamo iniziato a parlare con lei, professor Vaira, dei livelli di apprendimento del cane, nella relazione uomo-cane, e li hai divisi in 6 livelli. Hai fatto già subito un esempio per far capire l'importanza di questi 6 livelli e come sono stati suddivisi, però adesso ogni domenica ne tratteremo uno, e il primo di oggi è l'ambiente, perché ecco, ribadiamo che questi livelli ci servono a capire come funziona la mente del cane e anche a risolvere per esempio dei problemi che abbiamo con lui. L'altra volta facevamo l'esempio di un cane aggressivo, possiamo rifarlo. A livello dell'ambiente è che cosa il cane percepisce percepisce dall'ambiente attorno a sé. Corrisponde alle domande dove e quando. Quindi quando un cane è aggressivo io mi devo chiedere ma a che distanza, in quale contesto, quando è che succede, che cos'è che innesca questa aggressività. Allora, se io conosco queste cose, parto direttamente dal potermi gestire questo problema, perché la prima cosa che faccio io quando entro in una dinamica familiare con un cane che ha problemi è dare delle diciamo soluzioni di pronto intervento. Cioè, intanto che il cane tra virgolette guarisce, perché proprio voglio ricordare, l'aggressività non è che è un problema, una patologia comportamentale, l'aggressività è perfettamente iscritta nell'etogramma di un cane, solo che a volte può essere un problema per noi che lo dobbiamo portare fuori. Il cane è perfettamente normale, sano psichicamente, però è aggressivo come noi esseri umani. A volte siamo aggressivi, a volte questo è fuori contesto. Allora, la prima cosa, nel frattempo che si aiuta il cane a vivere un po' meglio il contatto sociale con gli altri cani e con le altre persone, quindi ad essere meno aggressivo, io devo capire come gestirmelo nel frattempo. E allora chiedermi dov'è che succede questa cosa qui, al comparire di che cosa, che distanza, se sei aggressivo con gli altri cani o con gli altri esseri umani o con tutte e due, se sei aggressivo nei confronti dei gatti o di quello che corre con la bicicletta. Questo mi permette di capire come prevenire questo problema. In che modo? Cioè, per esempio, lo strumento da utilizzare, quanto lungo deve essere il guinzaglio, se lo posso lasciare, perché il mio consiglio è lascia il guinzaglio lungo che il cane, così che il cane si destressi, perché la passeggiata col cane serve a farlo calmare, no? A farlo stressare meno. Però quando ti accorgi che c'è, per esempio, l'altro cane che sta arrivando, allora puoi accorciare il guinzaglio, cambiare strada, tenere gli occhi aperti, devi acuire un pochino di sensibilità da questo punto di vista. Questo prevede quindi il fatto che ci mettiamo letteralmente dal punto di vista del nostro animale. È un esercizio che io faccio fare di solito, quello di far finta di sedersi sulla cuccia del cane, sulla sua copertina, riportarsi in quel momento, guardare quel momento lì al parco, per esempio, da più bassi, cioè essendo più bassi, e quindi vedere gli esseri umani più alti e capire che cosa si innesca in noi come emozioni, così da avere e assumere quella prospettiva, capire che cos'è che ci fa problemi. E anche chiederci, se io sono il cane, cosa vorrei che facesse il mio proprietario? Che cos'è che mi permetterebbe di essere più sicuro, di non essere aggressivo, no? Ecco, allora, questa domenica pasquale iniziamola con questi quesiti. Proviamo veramente a metterci seriamente, a provare anche fisicamente a metterci dal punto di vista, nella prospettiva degli altri. Settimana comportamento. Expo due anni dopo. Dall'Agenzia Europea del Farmaco che lascia il Regno Unito a seguito della Brexit al nuovo polo tecnologico universitario. Le possibilità offerte dagli spazi costruiti per l'esposizione universale sono la nuova sfida che affronta Milano. Il nuovo viaggio di Radio 24 dal 17 al 22 aprile, ogni mattina nel GR delle 7. Tutti convocati live nel Santa Santorum dell'Etere, Radio City. Io sono Carlo Gente e con Pierluigi Pardo vi aspetto venerdì 21 aprile, ovviamente dalle 14 alle 15.30, convocati live dal Pavillon Unicredit in piazza Gae Aulenti a Milano. Faremo insieme una puntata speciale di Tutti Convocati, con tanti ospiti sul palco all'interno della grande manifestazione dedicata al nostro mondo, quello della radio. Vi aspetto. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Oh, allora, piuttosto il mondo dalla prospettiva animale, mi sono sempre chiesta, siccome quando vado in giro a volte i miei cani, soprattutto Morfì, mi fa molto ridere, se c'è molto vento hanno paura, ma una volta in modo particolare mi fece ridere perché c'era nel periodo dell'autunno in campagna nel giardino di papà, c'erano tutte le foglie secche, ma tante, tantissime, perché papà è circondato dal verde, ha ricostruito un paradiso vegetale pazzesco, ci sono oramai delle piante secolari veramente meravigliose. E ovviamente c'era sto letto di foglie enormi. Morfina e Euphoria sono scesi dalla macchina tutti felici correndo. Appena si sono trovati in mezzo alle foglie, hanno sentito un rumore, scappavano, sembravano Speedy Gonzales. Io ho iniziato a ridere, erano terrorizzate da quel rumore. Peggio mi sento quando c'è il vento. Quando c'è il vento non capisco come gli viene da scappare. Ma sai, il vento tra l'altro è fastidioso. Noi quando facciamo le classi di socializzazione, per esempio, sappiamo che il vento peggiora le interazioni sociali, cioè le fa diventare più preoccupanti perché stressa, no? quindi i cani sono più vigili, più in allarme, non ci stanno bene. Però insomma, a parte la, non è soltanto il vento o gli agenti atmosferici, sai che ci sono dei cani che hanno paura dei temporali, per esempio. La gente mi chiede spesso ma il mio cane sente che arriva il temporale prima che riesca ad avvertirlo io, come fa? E beh, innanzitutto i cani riescono per esempio ad annusare l'ozono, i cambiamenti di questo gas, che è l'ozono appunto, nell'atmosfera, che preannuncia l'arrivo del temporale. Oppure riesce a sentire. Quindi l'olfatto, non è l'udito? Anche l'olfatto, non soltanto l'olfatto, è anche l'udito, perché il cane, ricordiamoci, che sente delle frequenze sonore che noi non riusciamo a percepire. Cioè per noi un pezzo di realtà è precluso. Il cane riesce a sentire delle frequenze più alte, gli ultrasuoni cosiddetti, no? Che sono i fischietti, gli ultrasuoni. Noi non li sentiamo, invece gli animali sì. Quindi il cane riesce a sentire anche questi ultrasuoni che preannuncerebbero l'arrivo del temporale. Noi non sentiamo nulla, ma gli animali sì. E quindi in quel caso lì il cane sa, oddio, se ne ha paura del temporale, dice oddio, sta arrivando il temporale, e quindi comincia a preoccuparsi. Ma il vento? È il vento pure. Ma in che senso il vento? Ma il vento a loro dà fastidio per il rumore o perché è qualcosa che stressa? Il vento, tu immagini gli animali di stare allo stato brado, no? Quindi tu vivi, non so, in pianure, foreste, eccetera, eccetera. Laddove c'è vento, il vento nasconde, per esempio, i rumori attorno a te, li attutisce, quindi ti stona un po'. Spesso quando vai a fare passeggiate in campagna o nei boschi e soffia il vento, lo avverti questo stress quando torni a casa, cioè ti senti più stanco mentalmente. Quando c'è vento, c'ho la cervicale che va, quindi arrivo a casa stortissima, rincoglionita. A me dà proprio molto fastidio. Però mi piace vederlo invece nelle piante, quando senti il fruscio delle piante, quelle sì. Però quando c'è il vento forte a me stressa molto. In generale però dobbiamo tenere presente questa cosa qua, che purtroppo divide un po' in due gli educatori cinofili o chi si occupa di comportamento. Cioè c'è tutta una schiera, purtroppo ancorata alla vecchia scuola. C'è vento in radio. Non so se mi senti. No, c'era una... Allora Peter, lo sai che lui questo scherzo lo fa a sua madre ogni volta che gli telefona giù dalla Puglia? Come stai, Angioletto? Lui inizia a far così, la madre: pronto? Angelo? Non sento bene, va avanti tre ore, poverino. L'ho fatto anche a Rosita, poi dopo un po' di volte non c'è più cascata. No, amore, non ci sono cascata la prima. Comunque, torniamo ai cani. Allora, c'è vento e vento. Dicevamo che c'è chi dice che quando il cane ha paura non devi accarezzarlo per non incoraggiarlo, non rinforzare la paura. In realtà questa cosa qua non è vera. Cioè io a volte leggo ancora oggi negli articoli: attenzione, se il cane ha paura non devi accarezzarlo, incoraggiarlo, altrimenti tu rinforzi la paura. Ma io voglio ricordare che nella vecchia teoria dei rinforzi tu puoi rinforzare soltanto i comportamenti, non le emozioni. La paura non può essere rinforzata in alcun modo. Anzi, è naturale, chiunque se ne accorge, che quando il cane ha paura si viene a cercare prossimità, vicinanza. Ti vuole vicino. E questo per forza, perché è un meccanismo naturale. Quello starti vicino genera conforto, fa liberare per esempio ossitocina. L'ossitocina è una sostanza chimica che prepara al nuovo, cioè permette al cane di rilassarsi per poi affrontare meglio le cose. Quindi quello che noi non dobbiamo fare non è evitare di accarezzare il cane o di tenercelo vicino, perché questo gli potrebbe rinforzare la paura. Al contrario, possiamo stare lì e anche accarezzarlo. L'importante è il nostro atteggiamento. Perché se il nostro atteggiamento è oddio, vieni qua, cioè di andare innanzi a noi stessi, il cane leggerà il nostro comportamento, perché lo legge tranquillamente, e dirà: caspita, mi ero già preoccupato prima, te mi fai preoccupare ancora di più, no? Invece dobbiamo far capire a lui che ci siamo, abbiamo capito che lui è in difficoltà, ma noi siamo sicuri e va tutto bene, ma non dobbiamo ignorarlo. Pensa che all'inizio, quando io ho cominciato a fare questo lavoro, mi ricordo che un cane gli avevano tagliato un'unghia, e io ho detto: no, poverino. E l'insegnante che era lì mi fece: no, devi ignorarlo. Allora, tra i due estremi, cioè dirgli oh no, poverino, che io avevo fatto un errore, e quello di ignorarlo, che è un altro errore, c'è la via di mezzo. Ah, certo. Ah, ok, ho capito, ti sei fatto male, ci sono. Però io mi tengo ancorato ad emozioni tranquille. Noi dobbiamo essere leader emotivi, come abbiamo detto tante volte. Rimango tranquillo, però mi faccio capire al cane che io ho capito, mi sono accorto di lui, non lo sto ignorando. Allora, questa oggi è Pasqua, come ovviamente saprete tutti quanti. A volte uno aspetta le festività, no? Il Natale, la Pasqua, per fare dei buoni propositi. Per esempio la dieta solitamente parte il giorno dopo delle feste di Natale e Capodanno, oppure dopo la Pasqua ci si rimpinza. bisognerebbe fare, vorrei fare al contrario, come Alice nel Paese delle Meraviglie, sai che invece di festeggiare il compleanno, che una volta l'anno festeggiavano il non compleanno, quindi il non compleanno, che era tutti buon i giorni tranne il giorno, esatto, quindi bisognerebbe farsi dei propositi non festivi, no? Non festivi, non solamente durante le festività, certo, certo. Oh, beh, non avevo capito, ma come bacchettone, come preciso, ma furio. Non è come preciso, non avevo capito, com'è, ma preciso. Cioè, ma io voglio dire, che ma cosa rappresento... mi hai messo nell'uovo di Pasqua, rigorosamente fondente, no, senza latte, no, che sappiate qua che la qui vicina Rosita Celentano pensa che i cali di zucchero si controbilancino assumendo zucchero. No, lo so, ma se volevamo arrivare alla fine della trasmissione io ho dovuto prendere una bustina di zucchero perché si è magnata l'uovo di Pasqua della LAV, me lo sono magnato quasi tutto, si è magnato l'uovo di Pasqua e poi ha avuto il calo di zuccheri, ecco, perché c'è questa cosa che si chiama iperinsulinismo, l'insulina è intervenuta, vabbè, insomma, cioè, anche stare. A Pasqua noi non ci smentiamo mai, ecco, anche a Pasqua sono stufo, guarda che non ne posso sono più, io non che ne sono posso stufo. Più senti che cosa mi hai, no, regalato? Voglio dire, ma io rappresento anche una fetta di ascoltatori, se non ho capito io magari non ha capito pure qualcun altro. Che barba che noia, che noia, che barba okay. Che noia, guarda, Peter è un genio perché sì, mi risponde, ma sono io che dico mio. Che barba che noia, non tu, ma no, sono io che lo io dico, io rappresento Sandra Mondanini, mi hai aiutato, ha detto la stronzetta giornaliera. Oh, ecco, adesso ci provo. No, le abbiamo dette tutte, però sì, adesso dobbiamo trovare qualche altro slogan, Peter, dobbiamo tirarne fuori qualcun altro perché dopo Cosa vuoi che ti dica io? Stavo dicendo una cosa profonda. Profonda, sentiamo, una cosa profonda. No, che cosa vorresti? Che cosa ti vorresti, ti auguri? Visto che la Pasqua rappresenta la resurrezione, sì, comunque una rinascita, una no? Una rinascita. Che rinascita ci potremmo. Perché ridi? Che rinascita potremmo augurarci noi? Io e te come coppia? Tu, o? Anche tu. No, io e te come coppia. Oramai siamo in declino. No, che rinascita potrei io come persona? Beh, è una continua rinascita adesso. Non, mi prendi un po' in contropiede. Io sai che ingurgiti zucchero come... perché tu invece non ho capito cosa hai da associare a questa rinascita, scusa, a questa, no, resurrezione, perché... dei sensi, cosa... Guarda, la domenica scorsa abbiamo intervistato Stefano Mancuso, che a me ha veramente colpito molto e mi ha cambiato, sì, tanto la prospettiva dal punto di vista delle piante. Mi è piaciuto tanto perché non avevo mai iniziato a vedere, per esempio, gli alberi, le piante, anche se mi piace abbracciare gli alberi oppure come essere senziente, no? No, come essere senzienti li ho pensati, ma non riuscivo a fare quella distinzione che lui ci ha detto in modo molto chiaro e elementare, ma stracomprensibile, che non sono fatti di organi come noi, che non sono noi, se ci tagliano a metà, ci tagliano a metà, siamo finiti, se ci staccano un braccio. La pianta invece la puoi dividere, sezionare in tante parti, continua a vivere, quindi ho percepito una grande forza, è qualcosa di superiore rispetto a noi, è qualcosa di cui noi non possiamo assolutamente fare a meno, perché se si continua, lui ha detto, io mi auguro che si capisca che non si possono rovinare le foreste disboscandole così, perché veramente non, certo, muore tutto. Ma quindi tu immaginavi la resurrezione del genere umano, no? Esatto. Questa sorta di illuminazione, di essere, di proteggere quello che, da cui siamo dipendenti. Eh sì. Perché poi, sai, uno dice, vabbè, tu dici sempre, però non possiamo vedere tutto in funzione della nostra salvezza piuttosto che non. È vero, bisognerebbe pensarlo comunque proprio per il bene che vuoi alla pianta in questo caso, o il rispetto che vuoi dare alle piante e a tutto il verde che ci circonda e che ci permette di respirare. Però l'essere umano ha un fondamento di egoismo dal quale fa fatica molto a distaccarsi, e la volta che capisce, forse quando si spaventa, ha paura di rischiare lui in prima persona. Quando è troppo tardi, per esatto. Quindi anche se è troppo tardi, ragazzi, io vi auguro di capire qualunque cosa, vuoi per la paura di non sopravvivere, vuoi per quello o per quest'altro, siamo tutti connessi uno con l'altro, piante, animali. Sì, tutti, a proposito di connessione, questo è il motivo per cui noi ci interroghiamo sulla prospettiva animale. Tra l'altro abbiamo scoperto da poco che è stato forse per la prima volta nel mondo chiuso un macello per maltrattamento sugli animali, perché gli animali che vivevano in quel determinato macello purtroppo non stavano bene, giusto? Questo macello si trova in Belgio, e Tielt si chiama. Questa notizia è del 27 marzo del 2017, quindi recente. Sono state fatte delle immagini, sono entrati con le telecamere nascoste, quindi in questo caso l'hanno chiuso. Di base bisogna tornare ad avere rispetto e etica, anche se si vuole poi allevare gli animali, che sì, poi devono, dice, essere, perché sai quello che non si pensa tanto è, sì, ok, mangio gli animali, liberissimo di mangiarli, per carità, la nostra legge lo permette, però l'accento deve essere maggiormente su come quell'animale vive fino al momento della morte. So. Sì, infatti. Questo caso qui effettivamente è emblematico. Detto ciò, vi auguriamo ancora tantissima, tantissima, una bellissima giornata. Eh? Ah, sì. Ci dicevano, Peter, che la puntata non è ancora finita. State, no, ma io con noi. Sì, me lo stavo chiudendo. Comunque, state con noi. Io continuo a mangiare zucchero. Ciao. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Allora, Angelo, io ho voluto assolutamente che tu vedessi questo corto della Pixar che si intitola Piper, che solitamente uno vede quando va a vedere il film La ricerca di Dory. Prima ti passa questo cortometraggio di 6 minuti della Pixar che sta commuovendo giustamente tutto il mondo. A parte che di una fedeltà tecnica fantastica, perché non sembra nemmeno... Sembrano immagini reali. Adesso sentirete in sottofondo tutti i suoni, i rumori dell'oceano e degli uccellini. Si trova su YouTube, di questi piovanelli. È la storia di un piovanello, una specie di uccellino, che vivono sulla spiaggia. Il regista che ha realizzato questo cortometraggio, Alan Barillaro, fra l'altro c'ha un nome italiano, probabilmente italo-americano, ha detto che l'idea di questo cortometraggio gli è venuta proprio guardando il comportamento dei veri piovanelli sulla spiaggia. Tra l'altro, perché Barillaro è quello di Wall-E, Alla ricerca di Nemo. Sì, sì, è bravissimo. Monster & Co. Gli è venuta perché loro arrivano tutti sulla spiaggia quando l'onda torna indietro, no? C'è il risucchio dell'onda sulla sabbia. Allora vanno lì e si nutrono delle conchiglie, dei pesciolini, dei crostacei che ci sono lì. Però appena l'onda ritorna, loro scappano indietro, vanno avanti e indietro esattamente come fa l'onda. E questo cortometraggio è fantastico, perché è la storia di una mamma che insegna, che vuole svezzare il piccolino. Solo che lui c'ha paura dell'onda, perché viene travolto, che non si accorge dei pericoli che incombono nella vita di tutti noi. E quindi, cioè, quella volta la mamma, invece di fare come al solito, come il piccolo si aspetta che va lì a portare il cibo lontano dalle onde, dice: e mo te la viene a prendere qua sulla spiaggia. Esatto. Cioè, quel momento in cui il piccolo viene svezzato, viene incoraggiato ad affrontare le sfide. Tra l'altro è molto simile alla ricerca di Nemo, perché alla ricerca di Nemo cosa abbiamo? Un papà protettivo, che poi tra l'altro il figlio simboleggia, il pesciolino figlio simboleggia l'amore che lui aveva per la sua compagna, che è oramai morta. E questo papà iperprotettivo che a un certo punto perde il figlio, che da solo se la cava, e se la cava alla grande, no? Perché poi c'è questa riunione alla fine in cui il figlio ha imparato un sacco di cose e il papà, anche se è fatto più coraggioso ed è diventato non così iperprotettivo, riesce a lasciare andare un pochino di più. Ma difatti il regista dice che questo ha voluto raccontare questo cortometraggio perché gli ricordava un po' l'infanzia, perché lui dice che i giovani dovrebbero avere un po' la possibilità di esplorare il mondo facendo ovviamente degli errori, no? Uno dovrebbe essere un supervisore. Quando io ho visto questo corto, mi è piaciuto e ve lo proporvelo a voi in radio, perché c'è tantissimo da capire, da imparare. Anche per noi, i nostri cani, ma vale un po' per tutte le relazioni. Noi dobbiamo aiutarci sempre a crescere, i cani stessi ci aiutano a crescere, esatto. È una crescita comune. Allora, che cosa si può trarre come insegnamento da questa cosa di vienitela a prendere tu? Ti ricordi quella volta che abbiamo fatto una passeggiata sul lago di Lecco? Capito dove andare. Stai parlando di Morfin che doveva scavalcare la staccionata. Eh sì, ma gli altri non lo sanno. L'hai già detta anche questa in radio? No, ma quando mai? L'hai già detta? Però diciamola. Sì, tanto sono io la cavia. Allora, se non ve lo ricordate, perché scommetto che non ve lo ricordate, allora eravamo sul lago di Lecco, io e Rosita. Morfin oltrepassa una piccola staccionata proprio di 10 centimetri. Morfin è il chihuahua di Rosita. E non so, dopo 2 metri cominciava il lago. Fermo, acque ferme, tranquille, non succedeva. Lei va nel panico e dice: oddio, Morfin, torna! Come se ci fosse stata, non so, le cascate del Niagara che potevano. Niagara, se sempre detto Niagara, no, Niagara. No, adesso diciamo Sayonara, Niagara. Vabbè, decidete voi. Comunque, ci siamo capiti. Le cascate, allora, le cascate di Monte La Guardia a Bracciano. Esatto. Allora, io ho detto a Rosita: calmati, fai un passo indietro e aspetta. E Morfin, da solo, come se niente fosse, è tornato, ha risaltato questa piccola staccionata, dando prova che lui era capace di affrontare tranquillamente la situazione. Non era il caso di andarsene nel panico, perché quando tu pensi che il tuo cane non ce la faccia, metti in atto tutta una serie di azioni e comportamenti che gli comunicano che lui effettivamente non ce la fa, che è un incapace. È vero, è verissimo. Verissimo, io sono d'accordo con te. Poi uno deve anche appunto, io devo lavorarci un po' con la mia apprensione. Sono un po' come il papà di Nemo, dicevo. Però la cosa che a me ha colpito, questo è semplicemente un cortometraggio, ma un cortometraggio che prende spunto da quello che realmente la natura ci dà. Io sono cresciuta da sola nella mia vita pensando che quando non avevo tutte le risposte, oppure le risposte degli esseri umani non mi convincevano, guardavo la natura e dicevo: se la natura ha deciso così, io adesso il motivo non me lo so spiegare, ma probabilmente sono sicura che è giusto così. È giusto così. Quindi spesso uno dovrebbe soffermarsi a guardare il regista, che sai, i registi sono già un po' creativi, visionari, si soffermano di più a guardare, ma tutti dovremmo soffermarci a volte a guardare anche banalmente il cambio del colore delle foglie nelle stagioni, capito? Cioè tutto ha un senso, come dici tu, siamo tutti connessi. Io, associato a questo, nei miei clienti trovo la necessità oggi di essere a proprio agio nell'incertezza, perché sì, bello. Tutti hanno bisogno di risposte, di tenere tutto sotto controllo, e quindi sai, anche il fatto avere un cane, perché è stimolante da questo punto di vista? Perché tu il cane in realtà non puoi controllarlo sempre, soprattutto se lo vuoi far crescere felice. Il cane ha bisogno di sperimentare, di adattarsi, ha bisogno di sviluppare la capacità di adattamento, e quindi non lo puoi tenere sempre con questo cordone ombelicale. Ma devi lasciarlo. Noi abbiamo noi le stesse esigenze. Sì, perché l'iperprotezione è una forma di maltrattamento. E allora devi lasciarlo andare. Per lasciarlo andare non puoi avere le cose sotto controllo, e a volte non hai le risposte. Le persone si chiedono sempre: ma qual è la cosa giusta? Qual è la cosa? Allora noi dobbiamo imparare ad essere a nostro agio anche nell'incertezza. I cani sono una perfetta scuola anche per questo. Verissimo. Ci toglie un sacco di stress. Sì, ma quest'ansia di avere sempre tutte le risposte, sempre tutto sotto controllo, no? Allora, io volevo chiederti una cosa, già che sei qui. Visto che io, Angelo, gentilmente mi ha scritto due righe conclusive della commedia che sto facendo io, che purtroppo finirà l'11, il 12 e il 13 aprile a Roma, al Quirino, questa stagione poi riprenderemo, è questa storia di un cane che abbandona la coppia. Alla fine io spiego in poche parole qual è, chiudo, no? L'importanza del perché è così importante, cioè, la relazione. Dopo aver assistito a questa commedia molto bella che parla di un cane che abbandona i proprietari, poi torna, grazie a loro. Racconto qual è, perché è così importante la relazione degli animali con l'uomo. Uh-huh. E tu mi hai detto delle cose che per me erano... cioè, vabbè, io oramai dopo un po' di anni le so, però vedo la gente rimane molto stupita, perché la gente non sa che, come tu mi hai insegnato, la relazione dell'animale è innestata nel nostro DNA. Sì, diciamo che viene presa la relazione col cane, il fatto di avere un cane, via dicendo, come un vezzo, cioè una cosa molto importante, ma per lo più che è giusta soltanto perché piace. E quindi nel rispetto di chi ama i cani dice: vabbè, questa persona ama il cane, eccetera. Pochi sospettano che in realtà della relazione con gli animali ne abbiamo un estremo bisogno. Noi ci rivolgiamo al mondo animale sempre. Guarda per esempio i loghi della Ferrari, Puma, non vabbè, so, ma Shell. Gli aerei stessi sono disegnati sulla forma degli animali. Prendi l'Erwan, che è il simbolo dell'airone, Edison. Insomma, nel nostro immaginario degli animali abbiamo proprio bisogno, non soltanto come simbolo, ma ne abbiamo bisogno anche per confronto. Ma tu addirittura mi hai detto che quando ci sono stati i primissimissimissimissimi uomini sulla Terra 50.000 anni fa, gli uomini e le donne che sono sopravvissuti di più in 50.000 anni erano quelli che si sono saputi relazionare di più con il cane, con gli animali in genere. Sì, diciamo che l'alleanza con gli animali ha costituito un vantaggio evolutivo sugli altri ominidi, pur presenti in quel periodo, perché c'era l'Homo sapiens e l'uomo di Neanderthal copresenti. E noi, uno dei nostri vantaggi evolutivi è stato proprio quello dell'alleanza con gli animali. Su questa frase, un mio desiderio è quello che anche adesso sopravvivano nei prossimi anni quelli che si sanno relazionare bene con gli animali. Beh, abbiamo delle buone chance che siano persone migliori. Mi piacerebbe, no? Questa cosa, eh? Abbiamo delle buone chance perché ci sia un pianeta migliore. Perché? Perché la relazione corretta impostata con un cane è una relazione generosa, è una relazione di chi si chiede di che cosa ha bisogno il mio cane, cosa posso fare io per lui. Di che cosa ha bisogno l'altro. Non, esatto. Indipendentemente da chi sia. Si estende a cosa posso fare per l'altro, non prendo il cane per me, no? Si dice che allora forse nel 2047 finirà gran parte di questa terra. Ci saranno, stiamo oramai, abbiamo superato il punto di non ritorno. 2047, ma era 2012. No, no. Era io una so volta. No, vabbè. Allora io ho. A oggi i Maya dicevano il 2012, adesso è 2047. Adesso ogni io ho avuto questa data fuori. Al 2047, nel senso che sopravviveranno in pochi. Perché oramai abbiamo superato ogni livello di... Ma adesso poi l'ultima notizia di Trump, che ha deciso di sputtanare tutto l'ambiente fottendosene altamente di tutto quello che, di tutti i vari patti che aveva stretto per esempio Obama con vabbè, i trattati di dobbiamo... Parigi. No, però voglio dire, allora tenete presente questo, che non siamo sconnessi da niente, quindi non puoi fregartene dell'ambiente dove vivi. È come dire che tu vivi in una casa, decidi di non fare areggiare, di riempire di polvere, fai la cacca per casa, rovesci dopo che hai mangiato, fai marcire la roba, prima o poi quella un tugurio praticamente sì, mamma neanche ma magari prima o poi quell'ambiente imploderà, giustamente, quindi sappiate che non c'è più, essendo dipendenti dal nostro ambiente, se noi roviniamo il nostro ambiente uccidiamo noi stessi. Io ti dico la verità, facendo questo programma è riduttivo parlare di cane, perché tutte le volte che tu fai i paralleli con il cane immediatamente mi viene un confronto fra genitori e figli, fra fratelli, fra amici, nelle relazioni personali. No, volevo dire, sai, tornando a quel discorso che abbiamo bisogno degli animali, abbiamo delle prove, no, del fatto che gli animali siano innestati nel nostro, o meglio il bisogno di relazionarci agli animali sia innestato nel nostro DNA. Perché quando accarezziamo un cane i parametri fisiologici migliorano, per esempio? Liberiamo endorfine, per esempio, ci si abbassa la pressione, ho studiato bene. Io sì. Ti devo ringraziare, comunque lo farò Ci sono dei cambiamenti fisiologici in meglio. Sì. E questo non è un caso, perché se tu accarezzi un peluche non è mica la stessa cosa. È vero. Appunto, come mai? Mo questa la devo perché dire, gli animali, perché gli animali sono innestati nel nostro DNA, abbiamo bisogno di loro, cioè ci sono talmente tanto cari, talmente tanto ne abbiamo bisogno, talmente tanto ci sono affini, che succede addirittura questo. Ma quello è un parametro che puoi misurare, succede anche a livello psicologico, si abbassa il cortisolo, che è uno degli ormoni associati allo stress, per esempio, e quindi siamo meno stressati. E sai che i bambini che crescono con gli animali sono più intelligenti a livello sociale e emotivo. Si frenano meno di allergie. Esatto, chi vive con un cane ha meno probabilità di contrarre infarti, per esempio. Si dice che vivere con un cane allunga la vita. Ecco, quindi ecco le prove tangibili del fatto che gli animali siano innestati nel nostro DNA, diciamo così, in modo semplificato possiamo dire questa vorrei frase. Specificare che questa cosa non la diciamo io e Angelo Varia perché siamo impazziti, per qualcuno all'ascolto che poi magari decide di dire che siamo impazziti o di dire che siamo stravaganti, è scientifico, cioè sì. Non lo diciamo noi, l'altra è provato. Vuoi sapere che cos'altro allunga la vita? Riuscire a rendere la relazione con gli animali una palestra per riconoscere le emozioni altrui, cioè interessarsi a come sta l'animale, a evitare la paura non soltanto del proprio animale, degli animali in genere. Ecco perché ha senso la prospettiva degli animali, no? Il nostro programma è il mondo dalla prospettiva animale, mettendoci nei loro panni, capendo quali sono le situazioni che li fanno star male, li fanno soffrire, cercare di proteggerli allunga la vita. Bene, facciamo un'altra pausa e poi dopo vi racconteremo. Mi raccomando, guardatevi questo corto Piper della Pixar, a parte che c'ha questa musica di sottofondo con questi suoni che sono rilassanti, un po' zen. E poi è veramente, veramente molto emozionante e molto bello. Fra poco. Ascolto Gianluca perché smettiamola con questo pippamentalismo radicale. Perché parla pure Terroni. Perché non sono un'anima in pena, sono un'anima in piena. Io ascolto Gianluca perché, guarda, sono 3 giorni che provo a chiamare, non me lo ricordo neanche più. Perché la vita è una giostra che va. Perché la libertà d'espressione è bella, ma non ci vivrei. Ascolto Gianluca perché in bicicletta non sono lento, sono diversamente veloce. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presenta. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. E buona Pasqua ancora, ve lo ricordiamo, siamo all'ultimo blocco. Mi raccomando, passate questa Pasqua e Pasquetta in modo veramente più consapevole possibile, sotto tutti i profili. Buona Pasqua! Allora, è come non potevamo assolutamente non avere la nostra... Pasqua se magna! Sì, anche troppo. Magna. Noi già abbiamo aperto l'uovo di Pasqua, anzi ringraziamo la Love che ci ha regalato l'uovo di Pasqua. Grazie Love, questa campagna bellissima anche sul favorire in Italia che il 50% dei fondi destinati alla ricerca sia destinata alla ricerca ricerca di metodi alternativi alla sperimentazione animale, che non è più necessaria proprio per nulla, anzi. Quindi, allora, se voi andate sul sito, questa è l'opinione di molti scienziati, ovviamente anche della LAV, che dal 1977 si batte per i diritti degli animali e contro la vivisezione. Quindi, se volete firmare questa petizione, andate sul sito della LAV e troverete tutto quanto per firmarla, per portare avanti questa battaglia che anche io, Angelo e molti altri nel nostro quotidiano cerchiamo di portare avanti. Detto questo, grazie dell'uovo che ci ha finito quasi tutto con Peter e Miriam qui, l'abbiamo subito aperto, abbiamo festeggiato in radio, non poteva mancare il nostro piatti e ciotole. Piatti e ciotole, la rubrica, rubrichetta che ospita Mara di Noia. Ciao Mara. Ciao a tutti, buona Pasqua. Buona Pasqua anche a te. Grazie, auguri. Allora, voglio ricordare che Mara di Noia è un veterinario che ha fatto una scelta precisa e anche una metodica precisa. La scelta di alimentare i suoi animali di casa su base vegetale, esattamente come lei e la sua famiglia. E da qui l'idea di cucinare una volta per tutti qualcosa che vada bene sia agli esseri umani che a cani e gatti, con una piccola declinazione alla fine, al momento di impiattare e mettere nelle ciotole, ed è per questo che chiamiamo la rubrica piatti e ciotole. Ho riassunto certo. Bene? Sì, perfetto. Hai visto come bravo, visto come bravo, come sì, sta sul pezzo? Precisissimo, precisissimo. Hai visto? Allora, io oggi vi consiglio un piatto molto semplice, con un prodotto di stagione che a noi piace molto, Angelo, sono le fave. Quindi la quinoa alle fave. Perché a noi? A noi chi? A voi due? A noi pugliesi. A noi perché pugliesi. Sei pugliese pure tu? Sì, certo. Ma anch'io sono d'origine pugliese. A me piacciono crude però. Ecco, infatti questo è un piatto in cui vi servono 250 grammi di tris di quinoa, quindi compriamo una quinoa bianca, una rossa e una nera, si trovano già confezionate, in modo tale da avere un colore particolare, 300 grammi di fave fresche già sgusciate, un pizzico di sale e due cucchiai di olio. Scusa, sono un secondo, devo capire subito, le fave fresche sgusciate tu intendi solo fuori dal baccello oppure ogni fava gli togli pure la pellicina sopra? Perché allora ogni fava gli tolgo la pellicina perché è indigesta, okay, sia per diciamo i nostri commensali umani che per i nostri animali. Animali e quindi sì, perché spesso se non sono quelle novelle magari è coriacea, okay, e quindi diciamo appesantisce la digestione, okay. Per utilizzare la quinoa la dobbiamo prima sciacquare sotto un getto di acqua corrente perché altrimenti avrà un sapore amaro, e la facciamo rosolare per qualche minuto in una padella con un cucchiaino di olio. Aggiungiamo l'acqua e per due parti di acqua aggiungiamo una parte di quinoa, quindi facciamo una tazza di quinoa e due tazze di acqua e la facciamo cuocere per circa 20 minuti. A parte sbollentiamo le fave in acqua bollente per circa 5 minuti in modo tale da privarle della buccia che dicevamo prima. In una padella facciamo soffriggere, scaldare anzi meglio, l'olio rimanente, aggiungiamo le fave e successivamente, appena cotta la quinoa, possiamo scaldare tutto insieme completando la cottura, lasciando cuocere ancora per qualche minuto. La quinoa è buona lasciata al dente, quindi non aspettiamo che diventi stracotta. I cereali integrali sono molto buoni e devono mantenere una certa croccantezza. Per il piatto umano è pronto così, possiamo eventualmente tritare a coltello della menta fresca, le fave con la menta vanno benissimo. Per la ciotola dei nostri animali possiamo invece aggiungere i nostri soliti fiocchi di riso ad esempio, e manteniamo il piatto gluten free perché la quinoa è un cereale integrale che nasce senza glutine, e possiamo aggiungere per i nostri animali un po' di lievito alimentare in modo tale da dare quel sapore un po' di formaggio, perché il lievito alimentare disattivato ha questo profumo, questo aroma, e inoltre garantiamo un'integrazione di vitamina del gruppo B, che è sempre un po' incriminata diciamo nelle diete che non contengono derivati, certo, animali. Noi combinando in modo corretto cereali integrali, verdure e legumi, in questa ricetta nello specifico in questo, diciamo, piatto nello specifico non ci sono le verdure, ma possiamo cucinarle per il pasto successivo, non è necessario che ogni pasto sia perfettamente bilanciato. È importante che la nostra settimana alimentare sia, certo, bilanciata. Per fortuna siamo usciti un po' dalla schiavitù del pasto bilanciato ad ogni pasto, perché sennò saremmo tutti condannati a una, diciamo, cattiva salute. A crocchette, non esatto. È così. Però combinando in modo adeguato le famose 7 categorie di alimenti, noi garantiamo un'alimentazione vegetale sana che abbia un criterio per tutti gli esseri viventi. Quindi senza distinzioni possiamo mangiare tutti alla stessa tavola, festeggiare tutti senza crudeltà una festa di pace e goderci la vita anche a tavola. Benissimo. Ma tra l'altro, a proposito di verdure, scusa, le cicorie sono la morte loro con le fave. La morte loro, Angelo. Saltare delle cicorie che vanno bene sempre. Gnam. Quindi, scusa, fave e cicorie si può dare anche ai cani? Sì. Certo che sì. Noi gliel'abbiamo dato, poi io ti dico sì, perché la mamma di Angelo che arriva dalla Puglia, appena arriva, fa subito i suoi manicaretti al suo figliolino. Vabbè, no, ma mia mamma gli dice: cosa vuoi mangiare? E il primo in cima alla lista è fave e cicorie, che è un buonissimo piatto vegano, ma che dalla poi casa, io, poi abbiamo ridimensionato il famoso piatto di patate, riso e cozze, che facciamo solo patate e riso senza le cozze. Possiamo usare delle alghe in questo caso, vedi? Viene veramente con un sapore di mare molto intenso. Ammazza, forse che anche buono, troppo intenso, è buono perché le alghe sono di diversi tipi. Mm-hmm. Possiamo utilizzare un'alga dulce, che è un'alga bretone, che ha un sapore, diciamo, non così strong come altre alghe, e ci dà quel sapore di mare. Come l'hai chiamata? Alga? Dulce, è un'alga rossa bretone. Dulce con la Z? Sì, sarebbe no, dulce. No, è la mia S che fa zeppola, ma in realtà è la S di Savona. Okay, che vuol dire dolce, giusto? Alga dolce? Ma non lo so, perché sì, non me lo sono mai chiesto, ma credo di sì. Non dire alga dolce. Cresce però, sulle coste del Sud America. Comunque, io devo dire che patate, riso e cozze, senza le cozze, a me è piaciuto moltissimo. È venuta buonissima, per me andava, era perfetta. Adesso poi se ci mettiamo l'alga, poca alga, perché a me poi si sa troppo di mare. Mi fa strano. Si deve cuocere il riso nell'acqua del mare stessa. Vabbè, quindi tu hai rivisitato la famosa patate, riso e cozze con patate, riso e alga. Sì, assolutamente. Tra l'altro sì. Le alghe fanno benissimo, anche i cani. Fanno benissimo a tutti. Se abbiamo l'accortezza di usare delle alghe che non sono ricchissime di iodio, l'alga dulce è perfetta. Altre alghe sono troppo ricche di iodio, magari dobbiamo fare attenzione anche per, diciamo, l'utilizzo umano. Ma quelle, diciamo, che di uso quotidiano sono la wakame e la dulce. Sono la wakame è quella che usano nei giapponesi, no? Sì, è un'alga nera. No, quella è la nori. Quella è la nori, ma va benissimo anche la nori. Sono alghe di uso quotidiano e ci garantiscono un apporto corretto di sali minerali, perché ne sono ricchissime, e di vitamine del gruppo B. Quindi sono un alimento molto molto importante. Quante per cose chi... si scoprono. Quindi scusami, la famosa vitamina B, che uno dice che se non mangia la carne non la assimila, sta nelle alghe. La vitamina B non sta nell'alimento, la vitamina B sta nei batteri. I batteri che producono vitamina B12 sono presenti nell'erba, sia nel cibo terra. Animale che nel cibo vegetale. Ecco. Quindi andiamo con tutta tranquillità a mangiare cibi vegetali che sono ricchi anch'essi di batteri che producono vitamina del gruppo B, soprattutto non facendoci prendere dalla smania di sterilizzare gli alimenti. Perché certo. Quando sterilizziamo con la mucchina, gli alimenti, tipo. Esatto, quando sterilizziamo gli alimenti andiamo a ridurre tutta una serie di fattori importanti per la nostra flora microbica, tra certo. cui i batteri che producono la vitamina B12. Fantastica. Grazie Mara Di Noia. Abbiamo terminato questa puntata di Pasqua. Buona Pasqua a tutti, buona Pasqua. Buona Pasqua, Mara. Buona Pasqua anche a voi. Scriveteci, chiedimi se sono felice, @radio24.it. Ciao da Angelo Vaira e Rosita Celentano, domenica prossima. Ciao, buona Mara. Pasqua.